24 mattino estate con Irene Zerbini. Ben ritrovati questa mattina, si apre un ciclo di rassegna stampa con una voce nuova. Saluto dunque Lionello Mancini, buongiorno. Buongiorno. Sei proprio laconico, cioè puoi contenere l'entusiasmo, puoi dire anche una parola di più. Buongiorno a tutti. Va bene così. Lionello Mancini del Sole 24 Ore, che avrete modo di sentire naturalmente tra pochissimo. Noi invece in 24 mattino estate, nel dibattito che scatterà alle 8:30, affronteremo, visto la scuola che tra poco aprirà, il tema delle bocciature. Proprio così, molti bocciati, molto onore, sembra dire il ministro Gelmini. I primi dati del Ministero dell'Istruzione sull'anno scolastico appena concluso, cioè in giugno, parlano chiaro: ci sono più bocciati alle scuole medie, aumentano gli studenti che tra poco dovranno recuperare con gli esami di settembre. Gli studenti non ammessi nei soli primi due anni delle medie potrebbero arrivare a circa 70.000 rispetto ai 45.000 dell'anno scorso, e alla scuola superiore il 42,2% degli studenti non è stato promosso, il 28,6% è stato sospeso con debiti e il 13,6% non è stato ammesso. Molti bocciati, molto onore. Questo è un ritorno alla serietà e al rigore, oppure, come dice l'OCSE, che sostiene l'opposto, le nazioni con il maggior tasso di ripetenti di anni scolastici sono anche quelle con la più scarsa performance, sono quelle in cui il background sociale ha un impatto maggiore, cioè la bocciatura va a incidere sui ceti sociali più svantaggiati in genere, e coloro che vengono da contesti svantaggiati finiscono poi in scuole peggiori o nel non terminare l'anno scolastico. Voi come la pensate? Naturalmente potrete partecipare dalle 8:30 al dibattito anche via telefono. Intanto, per i vostri SMS 349-238-6666. In primo piano. E ben ritrovati con la rassegna stampa, Lionello Mancini. Dunque, oggi in primo piano? Ma guarda, in primo piano oggi c'è il fatto che la realtà sta travolgendo tutti i tempi dell'informazione, perché sto leggendo le cronache dalla Libia, ma sento anche dal GR24 che in realtà la situazione è in piena evoluzione. Per quanto riguarda la scuola, devo dire che, se posso esprimere una mia opinione su questo tema, che l'OCSE arriva una quarantina di anni dopo Don Milani, perché insomma Don Milani aveva già scritto che già nel 77 è abbastanza, che insomma, che il fatto di che una scuola che boccia vuol dire che è una scuola che non funziona. Poi la Gelmini probabilmente non ha avuto modo di leggere Lettera a una professoressa, ma insomma non si può fare tutto nella vita, ecco. Noi ti seguiamo sulla rassegna stampa e ritorneremo insieme al termine. Benissimo. Eccoci dunque alla lettura dei quotidiani. Come dicevo poc'anzi a Irene, la situazione più in evoluzione, che i quotidiani non riescono ovviamente a fotografare, è quella della Libia, ma i temi in primo piano che ci sono oggi sono ancora, come da alcune settimane, i temi legati alla manovra che ci aspetta, quindi a questo maxi salasso su cui stanno discutendo i partiti. Direi sì, più i partiti più che maggioranza e opposizione, e anche il discorso che ha fatto ieri il Presidente della Repubblica Napolitano al meeting dell'amicizia. Un punto forse di svolta, almeno ci si augura, perché è vero, come notano alcuni giornali, che negli anni scorsi il meeting dell'amicizia era un momento di tripudio e di ovazioni per Silvio Berlusconi, che non mancava di partecipare e di raccogliere una grande messe di consensi e di applausi dai giovani presenti, giovani ovviamente di orientamento cattolico legati a Comunione e Liberazione. Ieri invece il tripudio, la standing ovation finale è andata a un discorso di Giorgio Napolitano, di cui poi leggerò alcuni brani, perché è vero che l'abbiamo sentito anche nei giornali radio e in tutte le i telegiornali, ma vi consiglierei di prendere oggi un paio di quotidiani, credo che più o meno tutti riportano dei lunghi brani del suo discorso, perché ha messo a fuoco il vecchio Presidente della Repubblica davanti ai giovani di Comunione e Liberazione, ha messo a fuoco dei punti veramente nodali proprio nella vita delle istituzioni e della comunità di questo paese. Cominciamo comunque, e quindi questo tema lo ritroveremo dappertutto, credo che i brani che leggerò li prenderò, se ricordo bene, dalla Stampa, perché mi sembra che sia il giornale che ha focalizzato di più i temi secondo me essenziali. Cominciamo però invece da un giornale che dal Sole 24 Ore, che essendo il numero del lunedì, come sapete ormai chi ci segue lo sa, chiude il venerdì, ovviamente non riporta nulla di questa cronaca, ma riporta una serie di approfondimenti anche piuttosto interessanti sul versante della manovra. L'apertura del Sole 24 Ore è: il fisco locale raddoppia il conto. Quindi c'è uno speciale sulla manovra di Ferragosto, il titolo di apertura è questo, non è un bellissimo titolo, raddoppia il conto, non dice per chi, ma purtroppo lo sappiamo per chi, e dice: nei capoluoghi rincari massimi di oltre 1000 euro all'anno per famiglia, perché nella manovra è anche previsto che si sblocchino le addizionali locali e quindi comunali e regionali, e con l'effetto incrociato, dice il Sole, abbiamo un aumento di addizionali comunali, regionali e IMU, che in questo momento non vi saprei dire che tipo di imposta è, ma entro il 2015, quindi magari non sarà una cosa immediata, chiedo scusa, ma ci sarà questo effetto moltiplicatore. Ancora sul Sole 24 Ore, un conteggio fatto su una città, per esempio a Venezia il patto, che sarebbe il patto di stabilità, il divieto di investire, di spendere soldi anche se i comuni ce li hanno, a Venezia costa 190 euro per abitante. Un altro effetto della manovra che riporta il Sole, su cui il Sole ha fatto un approfondimento, è quello, ricorderete, che si parla dell'abolizione dei ponti, ovvero di spostare le feste o alcune feste al lunedì, il che significa che i ponti, quelli, non so, una festa che capita di mercoledì permette con due giorni di ferie, lunedì e martedì, di farsi il weekend più la festività. Bene, il taglio dei ponti nel 2012, quindi è un calcolo che si può fare calendario alla mano, nel 2012 il turismo perderà 5 miliardi, più difficile quantificare le ricadute sulla produzione e sulla crescita del PIL. Come viene fatto questo conto? Sulla base dei flussi turistici passati è stato ipotizzato che in quel periodo si spostano in media circa 9 milioni di persone, stiamo parlando del ponte 25 aprile 1 maggio, il 15% della popolazione che con il taglio del ponte non si sposterà più perché è costretta a lavorare. Nel caso di un ponte unico dal 25 aprile al 1 maggio le notti perse nelle strutture sono 6, una giornata di presenza, spiegano all'ufficio studi della FIPE, la federazione dei lavoratori, diciamo, del turismo, una giornata di presenza vale circa 700 milioni di euro. In totale, quindi, il taglio di fatturato sarebbe di 4,2 miliardi. Un flop maggiore in caso di due ponti brevi su cui spalmare lo stesso numero di persone. Ipotizzando, aggiunge la FIPE, che la metà dei vacanzieri parte dal 21 al 25 aprile e l'altra metà dal 28 aprile al 1 maggio, è evidente che si perde una notte in più e quindi il passivo sale a 4,9 miliardi. Ecco, questo è il conteggio dunque che viene fatto. C'è ancora, sempre sul Sole 24 Ore, siamo a pagina 9, un articolo su cui si può essere d'accordo o meno, ma che vale la pena di leggere, un articolo di Fabrizio Galimberti, uno storico collaboratore, un economista storico collaboratore del Sole 24 Ore, il quale scrive un articolo in cui dice: è giusto portare a 65 anni la pensione delle donne, con una speranza di vita più alta, è una misura di equità. questo articolo di Fabrizio Galimberti, che vi invito, ripeto, a leggere, perché è evidente che andare in pensione più tardi comporta degli svantaggi, ma, sostiene Galimberti, comporta anche un aggiustamento, un riequilibrio della situazione maschile e femminile. Questo articolo risponde alla domanda: è necessario alzare l'età pensionabile delle donne? La sintesi della risposta è: si tratta di una misura dovuta da troppo tempo. Andare in pensione prima degli uomini ha costituito un ingiustificato trattamento di favore che, per quanto riguarda il settore pubblico, sotto il pungolo di una condanna da parte dell'Unione Europea, scatterà già comunque dal 1 gennaio 2012. E poi segue questa analisi sulle condizioni del lavoro femminile e direi più in generale della condizione femminile nel mondo del lavoro, di qualunque tipo: lavoro dipendente, quello diciamo delle fasce più basse, e anche lavoro più di alto livello, lavoro manageriale, la partecipazione ai consigli di amministrazione. Ecco, in questo quadro, sostiene Galimberti, un ritardo della pensione per le donne è un fatto diciamo perequativo, perché dice, tra l'altro, le lavoratrici vivono più a lungo degli uomini e finora hanno potuto ritirarsi con 5 anni di anticipo. Vi segnalo ancora questa ultima pagina intera, pagina 27 sul Sole 24 Ore, dove da alcuni numeri, e proseguirà nei prossimi lunedì, viene offerta diciamo in collaborazione con Alfa Test, questa casa editrice specializzata nei test d'ingresso all'università, viene offerta una pagina con il test per l'ingresso nelle facoltà dell'area economico-giuridica. Il titolo della pagina è: porte più strette per entrare a economia, sono salite a 19 le università che adottano il numero chiuso, per un totale di 79 corsi di primo livello. Questo dunque il Sole 24 Ore, che lasciamo per il momento da una parte. Vado alla Stampa, perché in prima pagina della Stampa si parla ancora di manovra. Il titolo di apertura è comunque sul discorso del Capo dello Stato, come vi dicevo: evasione, basta debolezze, è il grande titolo virgolettato sulla Stampa. Napolitano: la maggioranza ha esitato sulla crisi, servono subito risposte. Il Capo dello Stato al meeting di CL critica anche l'opposizione. Calderoli ad Alfano: le pensioni non si toccano. In altri giornali ritroveremo altre frasi di esponenti di primo piano della Lega, oltre che frasi troveremo anche delle frasi non sempre elegantissime nei confronti di alleati e avversari politici. Troveremo anche comunque delle foto, le foto che testimoniano il linguaggio non verbale della Lega, che se Bossi lo utilizza per ragioni anche fisiche, nel senso che fa fatica a parlare, anche se ovviamente alzare il dito medio non è, o fare il gesto dell'ombrello, diciamo, non è proprio elegantissimo, però il fatto che lo utilizzino anche altri esponenti della Lega, come il ministro Calderoli, che viene ritratto in una foto con questo dito medio alzato, è una cosa che dà invece decisamente più fastidio. In primo piano. Eccoci di nuovo insieme e torniamo a leggere i quotidiani ripartendo dalla Stampa. Si parlava della manovra, abbiamo letto finora il Sole 24 Ore, e sulla manovra, anche per alleggerire un po', vorrei leggervi il Buongiorno di Massimo Gramellini, che nel suo stile leggero, se vogliamo, ma acuto secondo me, va a cogliere uno dei punti di contraddizione di questa manovra e dice così: avevamo chiesto i tagli della politica, i tagli però, non i ragli. Anziché dimezzare il numero e i benefit dei parlamentari, il governo crede di tenerci buoni segando a casaccio i piccoli comuni, il tessuto connettivo di un paese che è composto di 1000 villaggi, il suo apparato cellulare, l'unica istituzione in cui l'italiano medio si riconosce. Un provvedimento di tale portata avrebbe dovuto essere il frutto di un restauro complessivo dell'architettura dello Stato, e invece da noi le riforme vengono fatte così, una volta, una alla volta, a rate, come capita. Penso ai poveri sindaci dei paesi del mio Piemonte, costretti a decrittare il proprio destino dalla lettura impervia di un decreto scritto di corsa e male. per giunta a Ferragosto, con i prefetti in ferie che non possono neanche dare delucidazioni. Si è capito solo che i comuni sotto i 1000 abitanti dovranno consorziarsi con quelli adiacenti per raggiungere la fatidica quota 5000, ma poi si scopre che non è esattamente così, che ogni regola ha 100 eccezioni e che al sud la mafia si appresta a sfruttare queste fusioni a freddo per mettere direttamente le mani sugli apparati pubblici. Bene. Anzi, male. Volete sapere quale risparmio formidabile ci porterà la disarticolazione del sistema nervoso dei comuni? 6 milioni di euro. Su una manovra di 50 miliardi, poco più di quanto ci costa ogni anno il ristorante della Camera, 5 milioni e mezzo. Proporrei uno scambio secco. Ci teniamo i piccoli comuni e obblighiamo i deputati a iniziare uno sciopero della fame contro se stessi. Questo dunque Gramellini che fa notare questa grande operazione di razionalizzazione, come viene presentata, che fa risparmiare 5 milioni all'anno, mentre il ristorante della Camera ce ne costa 5 e mezzo. Sempre sulla stampa trovate diverse pagine ancora su questo confronto nella maggioranza Lega Popolo della Libertà a proposito delle pensioni. Alfano, che è stato intervistato ieri o l'altro ieri dalla stampa, dice: pensioni da ritoccare, Alfano convince il PDL. Beh, il PDL è il suo partito, quindi questo è un fatto positivo, ma si direbbe quasi scontato. Cauto il PD, Partito Democratico. Bindi: no a un intervento del genere per fare cassa. E a pagina 11, proprio di fronte, una pagina di intervista a Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC. Berlusconi: osi senza subire i veti di Bossi, il Parlamento lo sosterrà. Ecco, quindi, come dicevo, grande rilievo sui giornali alla manovra e al discorso di ieri di Napolitano. Le due cose si legano, perché Napolitano ha fatto un discorso molto ampio, molto profondo e molto duro sul versante della politica, che tutti i giornali riportano in maniera più o meno ampia. Allora, sulla stampa, la stampa pubblica il corsivo di apertura, o meglio l'editoriale, di Marcello Sorgi: il presidente ruba la scena al cavaliere. Dice: per il luogo in cui si è svolto e per le reazioni che ha suscitato, una serie ininterrotta di applausi e ovazioni, l'intervento del capo dello Stato di ieri in apertura del meeting di Comunione e Liberazione è destinato a fissare un passaggio delicato nella difficilissima crisi che l'Italia sta attraversando. E poi spiega perché. Cosa ha detto Napolitano? In uno dei passaggi dice, tra l'altro: abbiamo noi qui in Italia parlato in questi anni, in questi tre anni, il linguaggio della verità? Lo abbiamo fatto abbastanza tutti noi che abbiamo responsabilità nelle istituzioni, nella società, nelle famiglie, nei rapporti con le giovani generazioni? Stiamo attenti, dare fiducia non significa alimentare illusioni. Andiamo a prendere il seguito, purtroppo abbiamo un tempo limitato. Allora, saltiamo questa parte. Ecco, non si dà fiducia e non si suscitano le reazioni necessarie minimizzando o sdrammatizzando i nodi critici della realtà, ma guardandovi in faccia con intelligenza e con coraggio, il coraggio della speranza, della volontà e dell'impegno. Chiaramente questo è un richiamo al modo in cui negli anni scorsi il governo ha inteso, qui sono io che parlo, non Napolitano, ha inteso appunto minimizzare. Vi ricorderete le frasi: ma la crisi è un fatto soprattutto psicologico, comprate, comprate, probabilmente ve le ricordate, era un fatto invece un po' meno psicologico di come sembrasse. Oggi, dice Napolitano, ci vuole una grande mobilitazione di tutta la società in tutti i suoi comparti. Si può ben invocare oggi una simile mobilitazione, egualmente differenziata e condivisa, se si rende chiaro quale sia la posta in gioco per l'Italia. In sostanza, ridare vigore e continuità allo sviluppo economico, sociale e civile. Far ripartire la crescita in condizioni di stabilità finanziaria, non rischiando di perdere via via terreno in seno all'Europa e nella competizione globale. Poi ancora, e qui con questo io mi fermo dalla lettura di Napolitano, ma vi invito ancora ad andare sui quotidiani o probabilmente sul sito della chi ama di più internet, sul sito della Presidenza della Repubblica c'è sicuramente il testo integrale del suo discorso. Dice ancora Napolitano: possibile che si sia esitato a riconoscere la criticità della nostra situazione e la gravità effettiva delle questioni, perché le forze di maggioranza e di governo sono state dominate dalla preoccupazione di sostenere la validità del proprio operato, anche attraverso semplificazioni propagandistiche e comparazioni consolatorie su scala europea? E ancora, possibile che da parte delle forze di opposizione ogni criticità della condizione attuale del Paese sia stata ricondotta a omissioni e colpe del governo, della sua guida e della coalizione su cui si regge? Lungo questa strada non si poteva andare e non si è andati molto lontano. Occorre più oggettività nell'analisi, più misura nei giudizi, più apertura e meno insofferenza verso le voci critiche e le opinioni altrui. Io trovo, lo ripeto, questo discorso un discorso che dovrebbe essere appunto letto con molta attenzione. Il giornale, ve lo dicevo prima, che nota appunto anche il giornale, CCL, Comunione Liberazione, osanna l'ex comunista Napolitano. Ecco, il punto che coglie il giornale è il fatto che Napolitano abbia un trascorso comunista. È una cosa che su altri giornali non ho trovato, evidentemente è un punto che ha colpito soprattutto il giornale, diciamo, del Fratello del Cavaliere. Il titolo di questo giornale è «Crisi e alleati, quello che Silvio non può dire. È costretto a sopportare politici e politicanti, deve difendere la manovra di Tremonti e convincere Bossi sulle pensioni. Nel carroccio sale la tensione. Oggi il vertice verità del partito». Si riferisce a questo titolo al fatto che oggi in via Bellerio c'è una riunione della Lega. E sempre sul giornale, a pagina 2, il titolo è «La manovra, le tensioni nella Lega», diciamo, è l'argomento di cui si tratta. Lady Bossi, quindi Manuela Marrone, la moglie di Bossi, striglia Umberto e così agita il carroccio, sbatti fuori tutti i traditori. Come si muovono i colonnelli, quell'assordante silenzio di Bobo, sapete, è il soprannome di Roberto Maroni, ministro dell'interno, e le frecciate degli amministratori. E qui c'è una serie di foto, quindi Maroni, Calderoli, Tosi, Roberto Cotta, Marco Riguzzoni, Rosi Mauro. Bene, questo qui è il giornale. Se volete potete leggere anche un articolo di Giordano Bruno Guerri, «Ma nessuno protesta se si sfrutta il corpo maschile», e si riferisce alle lezioni di Mr. Gay, il che ci riporta abbastanza velocemente a un altro tema che non tratterò molto lungamente ma che vi segnalo, e cioè che oggi dovrebbe concludersi la vicenda di Dominique Strauss-Kahn. Ve lo ricorderete, l'uomo politico francese, presidente anche del Fondo Monetario Internazionale, che venne arrestato negli Stati Uniti con l'accusa di stupro. Bene, la vicenda si sta chiudendo perché la procura di New York non ritiene di aver raccolto le prove sufficienti per incriminare, per far condannare Dominique Strauss-Kahn, perciò ne chiederà il proscioglimento, il che non significa appunto che nulla sia accaduto in quella stanza di albergo, ma che non ci sono le prove per procedere dal punto di vista giudiziario. Questo aspetto lo nota Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, vi leggo solamente il titolo: Strauss-Kahn, caso chiuso col punto interrogativo, verso l'archiviazione, ma il rapporto sesso-potere è cambiato. Nota in sostanza Pierluigi Battista che, anche se questa vicenda si è conclusa in questo modo, dato che Dominique Strauss-Kahn era una figura al quale si attagliava perfettamente la vicenda in cui è stato implicato, bene, Dominique Strauss-Kahn non dovrà chiaramente più sbagliare nulla se vuole tornare nella vita pubblica e se vuole continuare nella sua carriera, ma in generale è cambiato il rapporto tra uomini di potere e sesso, ovvero l'utilizzo, diciamo, delle donne, poiché si è capito che non vale più la regola che tutti hanno sempre fatto così e quindi si poteva continuare a fare così. Sempre dal Corriere della Sera, restiamo qui, c'è un articolo, l'articolo di apertura, e l'editoriale è quello di Sergio Romano, sapete l'ex ambasciatore Sergio Romano, Strana guerra senza vincitori, si riferisce a, è un'analisi sulla sconfitta di Gheddafi in Libia, dice uno sconfitto molto incognite, e l'apertura anche del Corriere della Sera è i ribelli a Tripoli, il regime crolla, arrestati i figli di Gheddafi, nella notte appello dal bunker, festa nelle strade, si arrendono i pretoriani del Rais, il suo portavoce in TV invoca un negoziato, che mi pare francamente un po' tardino perché hanno bombardato i ribelli in tutti questi mesi, ora che sono entrati a Tripoli il negoziato mi sembra un po' difficile. Dice comunque Sergio Romano, vi leggo questo flash perché anche la situazione libica, oltre che confusa e complicata da un punto di vista politico, diplomatico e anche della guerra, è un problema che ci tocca da vicino, visto che, come sapete, moltissimi dei migranti che sbarcano a Lampedusa partono per l'appunto dalla Libia. Se la guerra di Libia, scrive Sergio Romano, come sembra è terminata, sappiamo chi l'ha perduta: il colonnello, il suo clan familiare, i profittatori del regime, le tribù alleate, gli amici internazionali che hanno scommesso sulla sua vittoria. Non sappiamo invece chi l'ha vinta. I ribelli hanno combattuto coraggiosamente, ma sono una forza raffazzonata composta all'inizio da qualche nucleo islamico, nostalgici del regno di Idris, una pattuglia democratica. Le loro file si sono ingrossate quando l'intervento della NATO è sembrato garantire una vittoria sicura. Ma il fatto che molti notabili siano stati alla finestra per parecchi mesi e abbiano cambiato campo soltanto nelle ultime settimane dimostra che il risultato della partita era incerto e che nella migliore delle ipotesi il paese sarà governato da una coalizione di opportunisti post-gheddafiani, lungamente complici di colui che ha dominato la Libia per 42 anni. Questo dunque il pensiero di Sergio Romano, profondo conoscitore della situazione internazionale. E abbiamo sempre sul Corriere della Sera anche il commento al discorso di Silvio Berlusconi nella pagina interna, a pagina 9, che ha definito il discorso di Napolitano misurato e costruttivo. In primo piano. Eccoci ancora dunque con il Corriere della Sera. Vi stavo dicendo del giudizio che Silvio Berlusconi ha dato del discorso di Napolitano, come se Napolitano si fosse rivolto a qualcun altro che non fosse anche il governo guidato da lui, ma ha trovato il discorso equilibrato e quindi insomma da apprezzare. Sempre sulla manovra, a pagina 15 del Corriere della Sera, troviamo una lettera firmata da uno pseudonimo, uno pseudonimo che indica una vicenda storica che insomma non ha molta importanza. Secondo me ha molta importanza invece il calcolo che viene fatto, forse un calcolo non nuovo, ma in questa lettera viene esplicitato in maniera molto chiara, e dice il super prelievo a Milano, questo è il titolo, toccherà a 38.440 persone. Scrive questo lettore con lo pseudonimo di Johannes Büchler, scrive: se si analizza bene la manovra, quella della tassa di solidarietà sui redditi più alti è una delle poche fonti certe. Dalle ultime voci sembra possa essere inserito il quoziente familiare. Forse qualcuno fa finta di non capire. Non è l'entità in discussione, cifre sopportabili, ma una questione di equità. E il quoziente familiare sarebbe ora che venisse applicato a tutti i contribuenti, non a spot. Nel frattempo cominciano ad arrivare i primi dati che dicono su quanti italiani peserà questa tassa. Su oltre 40 milioni di contribuenti, solo 494.838 persone dovranno versare il contributo, alla faccia dell'equità. Milano si installa, come sempre in questi casi, al primo posto. Peccato che su oltre un milione di dichiarazioni elaborate sui redditi 2009, solo 38.440 residenti all'ombra della Madonnina dovranno pagare. Al secondo posto Bergamo, con la bellezza di 2.906 contribuenti. Mi piacerebbe sapere, scrive questo lettore da Marchionne, a chi ha intenzione di vendere tutti i SUV che pensa di costruire in Italia. Prosegue l'intasamento nella casella mail di Büchler. In tutte una grande voglia di fare qualcosa per migliorare questo paese. Quindi praticamente una manovra, sostiene questo lettore. Abbiamo letto prima Gramellini che diceva del versante del taglio dei piccoli comuni, una manovra che peserà su meno di 500.000 contribuenti su un totale di circa 40 milioni. A pagina 16 e 17 ancora approfondimenti sul decreto sul Corriere della Sera, quindi ci sono i mini tagli che non bastano, il governo adesso ci pensa, si riferisce alle province, caserme e terreni pubblici la difesa ora vuole vendere, professioni più moderne su tariffe e sanzioni si discute, insomma in buona sostanza è un cantiere assolutamente aperto. Vediamo oggi cosa deciderà la Lega sul versante, se accogliere o meno la manovra sulle pensioni. E passiamo però a pagina 21, dove tutte queste vicende hanno fatto passare un po' in secondo piano il grande raduno di giovani in Spagna. Ratzinger saluta i giovani, appuntamento in Brasile. Tutta la pagina 21 del Corriere dedicata alla cronaca di questa giornata della gioventù. Alla folla oceanica, credo fossero 2 milioni di ragazzi, il mondo ha bisogno di voi e l'invito: non siate individualisti. E la città e gli eventi, dice ancora un altro articolo su questa pagina, dal calcio al Papa, tutti e tutto a Rio. Per 5 anni, fino alle Olimpiadi, sarà Rio la capitale del pianeta. Ancora, per stare un po' più sul leggero, vi salto ovviamente tutta la parte del caldo per un buon motivo. Il caldo evidentemente sta picchiando duro, ma chi è a Milano lo sente, è inutile parlargliene. Chi non è a Milano, beato lui, non lo sente, e quindi diciamo che questa giornata è una giornata da bollino rosso, è meglio essere in montagna o al mare, e chi è in città dovrà bere molto, insomma i consigli che danno sempre in questi casi. A pagina 24, una pagina intera anche qui del Corriere, è dedicata a un altro straordinario personaggio, una donna, e al tema della longevità sportiva. Vincere ancora a tempo scaduto, i prodigi della generazione idem, dove idem non è la parola latina che significa uguale, ma il cognome di Josefa Idem, e cioè la canoista che ha 47-48 anni, adesso qualcuno dice 47, qualcuno 48, parteciperà alle prossime Olimpiadi, cioè è riuscita a qualificarsi anche per le prossime Olimpiadi. Di questo tema andiamo a pescare qualche elemento sulla Repubblica, perché se ricordo bene la Repubblica faceva altri esempi di atleti longevi e in alcuni casi veramente straordinari, invece in altri casi alcuni che non ce l'hanno fatta. Eccolo qua, pagina 46 della Repubblica. Sotto il titolo Cuore, rigore, DNA, lo sport trasformato dai ventenni di 40 anni, dai giochi al calcio sempre più numerosi i veterani d'oro. E allora vediamo che c'è una certa Dara Torres, nuotatrice USA, 44 anni, per lei 5 Olimpiadi con 12 medaglie, di cui 4 d'oro. Merlene Ottey, 51 anni, 7 Olimpiadi, ha mancato il minimo degli ultimi trials sloveni, quindi continua comunque a provarci. Gary Roberts, 45 anni, di cui 21 nella squadra di hockey, di non so quale, forse olandese, nel 96 un primo ritiro. Paolo Maldini è l'ultimo che viene citato, 25 anni in Serie A con il Milan, 902 gare tra l'84 e il 2009. Le allegre pagaiate della Idem, che dice: non volevo essere nonna canoa, Josefa dopo la storica qualificazione, per ora vado a raccogliere le prugne. È l'ottava Olimpiade per lei. A Londra voglio vincere. Dopo aver guarito la spalla sinistra non posso cominciare con un difetto la preparazione. Sono 47 anni, anche la Repubblica dice 47 anni, splendidi 47 anni. È il mio messaggio: se si tengono a posto, le donne della mia età possono vivere un momento bellissimo. Mare e marmellate, sto leggendo dei piccoli sommari all'interno di questa intervista. Mare e marmellate, i miei figli hanno detto: evviva, andiamo in vacanza. Mare, relax, un viaggio a Praga, ma anche marmellate. Questa dunque Josefa Idem, una storia incredibile di vigore atletico e di seconda età, sì, seconda età direi che si chiama così. E, mentre invece, sempre su Repubblica, voglio segnalare, e sarà l'ultima segnalazione, io credo, un'intera pagina che ci dà dei dati non proprio belli sulla ricerca. E praticamente dice: la ricerca perde pezzi, così l'Italia è diventata la maglia nera d'Europa. In un anno 12.000 pubblicazioni in meno. Sapete che le pubblicazioni nel mondo della ricerca sono un indicatore molto importante di quanto sia vivace il mondo accademico e dei ricercatori di un paese. Allora, ci sono dei dati del 2008 in cui risulta, e qui si riconferma una delle caratteristiche dell'Italia, quindi grandi teste, grande creatività, grande capacità di impegno e scarse risorse. Nel 2008 l'Italia era al top per pubblicazioni individuali, ovvero il numero di pubblicazioni per ogni ricercatore. L'Italia si avvicinava a quota 0,5, seguita dall'Olanda 0,4 e sotto lo 0,3 da Gran Bretagna, Spagna, Germania, eccetera, 2008, quindi grande numero di pubblicazioni. Sempre nel 2008 il numero di ricercatori per 1000 abitanti vede la Gran Bretagna in testa con 3 ricercatori per ogni 1000 abitanti, seguita dalla Svizzera, la Spagna, eccetera, e l'Italia all'ultimo posto con meno di un ricercatore, è un dato ovviamente statistico, per ogni 1000 abitanti. E c'è un'intervista ad Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas, che dice: tagliati fuori dalla corsa all'oro grigio. Che cos'è l'oro grigio? L'oro del terzo millennio è grigio e noi la corsa per accaparrarcelo non la stiamo neanche perdendo, semplicemente per colpa delle nostre politiche non siamo nemmeno schierati sulla linea di partenza. Questa è l'ultima notizia che vi ho letto dai quotidiani, lascio ora di nuovo la linea a Irene Zerbini. Sì, mi sembra di capire dalla tua ultima segnalazione che si stenti ancora a capire su questo oro grigio quanto la questione ricerca vada di pari passo con la competitività di un paese, che impatto economico poi possa avere questo tipo di investimento nell'oro grigio. Mi piace questa definizione. Grazie a Leonello Mancini, ti ritroviamo domani mattina. Domattina. Nella rubrica Visti da fuori alle 8:20 andremo a incontrare un giornalista iracheno e a sentire le sue osservazioni sull'Italia, che secondo il nostro amico è dotata di petrolio, torniamo a un altro oro, è un petrolio particolare, staremo a sentire. E poi parleremo alle 8:30 di bocciatura, la pratica della ripetizione dell'intero anno è stata a sua volta bocciata dall'OCSE, che la ritiene inutile e costosa, e anche un odioso modo per rinforzare le disuguaglianze sociali, perché si va ad abbattere non immancabilmente ma nella quasi totalità su bambini e ragazzi che provengono dai ceti sociali più svantaggiati. State già rispondendo con le vostre reazioni su Facebook, sulla pagina di 24 Mattino. Potete inviare gli sms al 349-238-6666. Vi leggo brevemente una segnalazione. Sono un insegnante di scuola primaria. Penso che queste bocciature siano in realtà un modo per girare il coltello nella piaga, nella vita di studenti con condizioni familiari precarie. A cosa serve bocciare nuovamente un ragazzo extracomunitario di 17 anni in terza media? Altri invece sono a favore. Ne parleremo alle 8:30, ora il giornale radio. 24 Mattino estate con Irene Zerbini. Estate, ma si parla di scuola. Tra poco ci saranno gli esami per chi deve recuperare a settembre, e quest'anno è stato un anno molto duro per gli studenti italiani, perché secondo i dati del Ministero dell'Istruzione ci sono più bocciati alle scuole medie, sono aumentati gli studenti che a settembre dovranno appunto recuperare. Gli studenti non ammessi nei soli primi 2 anni delle medie sono stati circa 70.000 rispetto ai 45.000 dell'anno precedente. Alla scuola superiore il 42,2% degli studenti non è stato promosso, 28,6 sospeso con debiti e 13,6 non ammesso. Intanto però contestualmente l'OCSE informa: attenzione, la bocciatura, cioè la ripetizione tout court dell'anno, fa parte di una scuola antica che non va incontro ai bisogni dell'individuo, dello studente, è antieconomica, è superato. In Austria si abolirà dall'anno prossimo, in Francia si discute una riforma e addirittura scrittura è qualcosa che contribuisce a consolidare le disuguaglianze sociali, perché va ad abbattersi quasi sempre, nella quasi totalità dei casi, sugli studenti che provengono da contesti familiari, sociali, linguistici svantaggiati. Attenzione, prima di esprimere la vostra opinione, perché questo vi inviteremo a fare naturalmente, la bocciatura in questo caso dall'OCSE va intesa come strumento unico per invogliare il successo di ogni singolo studente. Quindi l'abolirla o rimuoverla non significa aprire a tutti, nel senso di qualunque cosa tu faccia sui banchi di scuola andrà bene, ma semmai di potenziare dei percorsi di sostegno, percorsi di accompagnamento, incentivi per gli alunni in difficoltà che non passino dall'umiliazione della ripetizione dell'anno, dice l'OCSE. Voi come la pensate? Al 349-238-6666 c'è anche chi confessa: sì, io sono stato bocciato, ci dice via SMS, nel 1980, e hanno fatto bene perché ero un disturbatore. E poi c'è Beppe che da Guastalla ci segnala: sono un insegnante di scuola guida, più promossi più onore, perché noi insegnanti siamo come gli allenatori, la squadra più vince e più onore hanno loro. E le vostre opinioni sono tutte naturalmente bene accolte qui da noi. Alle 8:30 potrete anche partecipare telefonicamente all'800 24 00 24. Ora andiamo a incontrare qualcuno che ci guarda da fuori, un corrispondente straniero, viene da uno dei paesi del petrolio, un iracheno, ma dice che il petrolio in realtà l'abbiamo anche in Italia. Sentiamo. Visti da fuori. Con noi oggi c'è Saad Hussein. Buongiorno, benvenuto Saad. Buongiorno a voi. Saad Hussein è il corrispondente in Italia per The New Era Newspaper ed è di nazionalità irachena. Spero ti piaccia questo omaggio musicale. Ma certamente mi piace. Cosa dice? Speriamo. Cosa dice? La canzone parla, una canzone antica irachena, ecco, intorno ai 200 anni fa, parlando di una storia di amore, ecco, il simbolo iracheno. Ma quindi è una canzone molto popolare, molto certamente famosa, interpretata certo in questo caso da Franco Battiato. Sì, ecco. E tu di amore ti sei occupato a lungo quando vivevi in Iraq, perché avevi una trasmissione specifica, una trasmissione radiofonica che parlava d'amore, Oltre la notte. Perché avevi scelto di fare comunicazione in campo sentimentale? Ma perché quella epoca, poi era anche per me, era un giovane che avevo intorno a 22 anni, 23 anni, conosco bene questi problemi che viviamo tutti insieme su questo. Poi io ho scelto questo tema, quel tema di quella epoca era importante, perché le donne irachene o giovani irachene soffrono o soffrivano sui problemi sentimentali per motivi sia religiosi o motivi sociali. Perciò è stato un programma abbastanza importante per i giovani. Poi io ho riuscito a scoprire un tipo di codice che sto utilizzando fra ogni persona che manda senza nome e cognome. Poi, cioè, tu utilizzavi dei messaggi cifrati con un codice di riferimento, così che l'amata o l'amante potesse comunicare con certo lui a cui non poteva accedere. Hai usato l'amore quindi come specchio della società irachena per raccontare certo dei problemi sociali e di emancipazione della donna. Ma certo, perché la donna irachena soffriva e soffre ancora su questo, anche l'uomo iracheno generale. Tu sai che in Italia dell'Iraq si conosce poco, naturalmente il paese è salito alle cronache internazionali in occasione della prima guerra del Golfo nel 1991, ti rendi conto che chiaramente la conoscenza del paese è scarsa. da parte degli italiani. La prima domanda che chiedono, Saddam Hussein, lei è d'accordo o no? La prima domanda. Io per me, dipende da quale persona che fa la domanda e che tipo di cultura che tiene, ecco, non possibile, non è tutti... L'Iraq come storia conosciuta in Italia anche attraverso anche la scuola, ecco, la Mesopotamia, ma come attualmente ho il legame con l'Iraq che noi conosciamo attraverso ogni tanto quando c'è un protocollo fra l'Iraq e l'Italia o quando c'è notizia di guerra e attentati eccetera eccetera. Ma io penso per conoscere l'Iraq è veramente una risorsa culturale e profondamente importante, che è un punto di vista anche religioso e anche per la parte fondamentale la scienza in Iraq è andata abbastanza a costruire la cultura della scienza internazionale anche partita dall'Iraq, specialmente al periodo di al-Calife Harun Rashid. Invece tu in Italia, per raccontare l'Italia agli iracheni, hai scelto la chiave dell'arte e dunque i tuoi pezzi si concentrano sulla ricchezza culturale italiana. Per esempio, uno degli ultimi che hai scritto, di cosa parla? Parla di Maxi. Il Maxi è un museo dell'arte moderna a Roma. Proprio fatta l'architettura fatta di una grande architetto irachena che si chiama Zahed Hadid, una donna vive a Londra, di una grande qualità di architettura. Io ho scritto su questa, era una caserma. Per me il museo, il Maxi, è dato un punto fondamentale per la città di Roma, come l'auditorium di Roma, che sono vicino intorno a 200 metri. Ma io ho scritto anche la qualità della materia che ha usato l'architetto. Quindi secondo te l'arte può più in tema di pace che tanti convegni, tanti discorsi e tanti governi? Ma io posso dire il patrimonio iracheno è il petrolio, ma il patrimonio italiano è la cultura e l'arte. Il petrolio italiano è l'arte, e detto da un iracheno è un grande complimento, un'affermazione con un altissimo valore. Grazie, come si dice grazie in arabo, Saad? Grazie ancora, Saad Hussein, per essere stato con noi, è il corrispondente iracheno in Italia per il giornale di Baghdad, The New Era Newspaper. Grazie a voi, buon lavoro. 24 mattino estate. Benvenuto raggio di sole a questa terra di terra e sassi. E ritorniamo a parlare di bocciatura questa mattina, soprattutto di scuola. Sono multiformi le reazioni fino a questo punto. Diciamo che sono veramente due frontiere molto divise, quella a sostegno del rigore che deve passare inevitabilmente dalla bocciatura e coloro che invece dicono attenzione, lavoro in una comunità di minori, per esempio una segnalazione che ci viene da Roberto, della bocciatura sottolineo la negatività dello stigma che sui miei ragazzi rinforza la divisione sociale. Matite per giocare e un bicchiere per bere forte. Matite per giocare e una scuola più attenta ai bisogni dell'individuo è quella invocata da molti che ritengono che altri dovrebbero essere i percorsi di sostegno. C'è poi invece chi sottolinea: non sapevo che l'essere un cosiddetto ragazzo difficile ti dovrebbe dare il lasciapassare per un diploma, alla faccia di chi davvero studia e si impegna. Quindi attenzione ai due fronti, in mezzo si piazza l'Ocse. Cosa dice l'Ocse? Dice semplicemente che bocciare è dannoso. Questo non significa che i ragazzi debbano essere lasciati a se stessi e invogliati a fare ciò che vogliono, ma l'OCSE sottolinea come il metodo del ripetere tutto l'anno e tutte le materie sia oramai una caratteristica di una scuola all'antica, di un vecchio modello che l'OCSE contesta, perché rafforza le diseguaglianze e sarebbe ora di andare per vie dove viene preso con attenzione il bisogno dell'individuo o la singola lacuna, rafforzata questa lacuna con percorsi di sostegno che vanno dalla ripetizione alla discussione corale al rifacimento di quella materia, maggiore elasticità insomma. In paesi come la Spagna, il Belgio e l'Olanda, dove i ripetenti sono molto alti, il ritardato ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, tra l'altro, secondo l'OCSE, ha un altissimo costo economico. L'Italia come si piazza col 18% di ripetenti l'anno? È uno dei paesi decisamente severi, se si pensa che in Giappone non si boccia nessuno, in Finlandia solo non si boccia nessuno, anche in questo paese il 3% invece dei bocciati si registra nelle fila degli studenti della Gran Bretagna. Continuate a contribuire con i vostri SMS a questa discussione, 349-238-6666. Il numero telefonico da comporre invece è l'800-2400-24. Buongiorno a Marcello D'Orta. Buongiorno. Lo ricorderete, l'autore di Io speriamo che me la cavo. E lei può essere chiamato in causa anche e non solo in quanto insegnante, ma in quanto insegnante di quella fascia sociale additata dall'OCSE come la più svantaggiata e destinata a rimanere tale anche grazie alla pratica della bocciatura. Lei, Marcello D'Orta, ha insegnato in diversi quartieri difficili, ricordiamo le sue pagine commoventi di quel libro Io speriamo che me la cavo. Veramente non le ha scritte lei, le ha scritte i suoi studenti. Come l'accoglie questo stimolo dell'OCSE, questa indicazione dell'OCSE? È favorevole, è contrario, è perplesso? Come possiamo collocarla? Allora, io potrei dire, per fare una battuta, che predico bene e razzolo male, nel senso che pur essendo per la bocciatura, poi nella realtà dei fatti io non ho mai bocciato nessuno. Perché lei in che scuola insegna? Elementari o ha insegnato? Io ho insegnato nelle scuole elementari. Non ho bocciato per due motivi essenziali. Il primo è che alle scuole elementari di fatto non si boccia, cioè salvo casi eccezionali. Questa sarebbe, diciamo, la dicitura burocratica. Questi casi eccezionali quali sono a conti fatti? Sono quelli che quando il numero delle assenze di un alunno supera il giorno di un solo giorno il numero dei giorni che si dovrebbero trascorrere a scuola, praticamente è considerato un'unità adempiente a tutti gli effetti, per cui viene respinto. Però noi, diciamo, non stiamo nella casistica questa dell'OCSE, quindi non ho bocciato per questo motivo, perché non ho mai trovato qualcuno che abbia fatto più numero di assenze che numero di giorni effettivi. Ma poi soprattutto non ho bocciato per la realtà dei fatti, cioè che anche quando un mio alunno andava male in quasi tutte le materie, quando però ci si rende conto che si conoscono le ragioni per le quali un ragazzo non studia, ovvero non può studiare, e quali erano le ragioni, chi ha visto il film tratto dal mio libro ha capito quali fossero queste ragioni, cioè ragazzi che sono impegnati nel lavoro. No, nel lavoro, in questioni domestiche, cioè questioni devono domestiche, impossibilità proprio oggettive, devono crescere i fratellini o stare con loro, quindi lei dice in questo caso è chiaro che i risultati scolastici hanno non possono essere brillanti, non possono. Però quando poi ci si trova davanti, ripeto, non è il mio caso, parlo però in generale per gli altri, sì, davanti a un ragazzo che ha tutte le potenzialità, le possibilità di poter studiare, ma come dire, diciamo, se ne frega, diciamolo, la scuola all'ultimo posto, allora è diverso, anche perché, diciamo, io per esperienze indirette conosco ragazzi che dopo una non ammissione hanno ricominciato in modo radicalmente diverso l'anno successivo, ottenendo delle soddisfazioni, risultati che loro stessi non si sarebbero neppure sognati. Quindi e dunque così, scoperti di avere delle potenzialità che poi hanno messo a frutto. Professore, diciamo che lei non è né a favore né contro, cioè lei salverebbe la pratica della bocciatura, la ritiene stimolante in alcuni casi. Possiamo collocarla in questo modo? Possiamo dire così, anche perché poi la scuola in realtà è il luogo dove apprendiamo, oltre che a leggere e a farti conto, come si diceva una volta, apprendiamo che la vita ha i suoi doveri, le sue regole, i suoi scogli da superare, e quindi avere a scuola, non, diciamo. Ma questo l'Ocse non lo mette in dubbio, dice semplicemente non è la bocciatura che può insegnarti questo. Sentiamo ora altre opinioni, ci spostiamo in provincia di Parma dove troviamo un preside, Aloisi Tosolini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Lei è preside del liceo scientifico musicale Attilio Bertolucci di Parma. Sì. E come si colloca rispetto a questa segnalazione dell'Ocse? Bocciare è dannoso. Molti insegnanti pensano che tanti bocciati voglia dire un ritorno al rigore. Anche il ministro Gelmini sembra di questa opinione, secondo gli interventi che abbiamo visto anche in televisione. E quindi che una scuola più rigorosa sia più seria, sia migliore. Come la pensa lei, preside? Temo purtroppo che l'interpretazione sia molto più corretta sia quella ancora oggi di Don Milani. Se noi andiamo a vedere chi è che viene bocciato, poi realmente bocciati sono soprattutto persone che hanno in percentuale ovviamente difficoltà sia dal punto di vista sociale sia ad esempio dal punto di vista linguistico. È molto interessante un dato pubblicato nel 2004, poi non è più stato fatto dal Ministero questa indagine, laddove c'è il gap dei bocciati tra alunni, come dire, immigrati e alunni italiani. E quant'è questo gap? Aumenta moltissimo nelle scuole superiori. Pensi ad esempio che, io ricordo, cito solo il caso di Parma, nel 2004 la probabilità di essere bocciati se si era nelle scuole superiori, se si era alunni stranieri o non italiani, come si dice adesso, era esattamente il doppio rispetto a quegli italiani. Per cui qui uno viene bocciato in lingua italiana, non in matematica, in scienze, in storia, insomma è una cosa un po' assurda. Senta preside, ma ci scrivono anche gli ascoltatori, questo è buonismo, è quello che ha ridotto l'Italia in questo stato, è una segnalazione via sms al 349-238-6666, ne approfitto per ricordare il numero. C'è anche chi ci dice la bocciatura è l'altra faccia della meritocrazia, oppure diamo la laurea a tutti, affossiamo il merito, quindi smettiamola con questi discorsi. Cosa risponde? Ma rispondo che guardando l'Italia, leggendo i giornali di oggi, credo che il mondo adulto sia tutto eccetto che questo concetto di merito che si sta dicendo, quindi per favore guardatevi allo specchio, poi ne riparliamo. Dal punto di vista della scuola, nessuno elimina il merito, ci mancherebbe anche. La questione piuttosto è se ha senso, come dice l'Ocse, che una persona, eccetto casi straordinari, particolari, eccetera, che non va bene in matematica, debba ripetere anche storia, geografia, filosofia, italiano, perché ripete l'anno. Il concetto adesso potrebbe risultare un po' complicata come ragionamento, però proviamoci. Sono modelli di scuola differenti. Cioè lei sta dicendo no alla bocciatura globale, così come la interpretiamo in Italia, così come la facciamo con la ripetizione, certo, dell'anno, ma certo, si ripeta finché non si passa quella materia, quel credito, certo, adesso non sappiamo, esatto, nemmeno più come definirlo, un po' il modello statunitense, canadese. Modello statunitense, oppure modello universitario. Non è che se uno non passa anatomia 1 a medicina sta fermo lì fin quando non va avanti. Ecco, ma non ripete tutto quanto. Cioè l'idea è che non ha particolare significato ripetere completamente l'anno. Il concetto è questo: il centro che muove la scuola è la classe o l'individuo. Se ho il gruppo, quindi, nel senso che se io ho una didattica per gruppi disciplinari, io posso far fare 6 volte al soggetto che non ha superato l'unità di apprendimento di matematica, l'unità di apprendimento di matematica, senza con questo che lui debba ripetere con la sua classe. È un altro modello di, sì, apprendimento. Bisognerebbe rimodulare anche l'ingresso degli insegnanti nelle classi, il sostegno. Chiaramente non è né un meccanismo indolore né qualcosa che si possa applicare sistematicamente senza una riforma un po' globale di come viene concepita la scuola. Grazie. Ha a che fare con la riforma della scuola, appunto, di cui grazie preside, torneremo da lei, lasciamo parlare però anche gli ascoltatori all'800 24 00 24 perché premono. Comincerei con Tommaso, buongiorno. Buongiorno Irene. Buongiorno, lei quanti anni ha Tommaso? Io ho 50 anni. Ha una voce molto giovanile, pensavo fosse sì. Magari un... E forse familiare perché abbiamo avuto già dei contatti ultimamente su altri temi. Quindi lei ha già chiamato a Radio 24? Sì, sì. Io volevo intervenire oggi perché ho sentito un tema molto importante. Sì, dica, veniamo al punto Tommaso. E sulla scuola, sì, direi questo. Io anche ho l'esperienza di due genitori insegnanti che hanno fatto questo mestiere, che ci hanno trasmesso un concetto, un'etica molto sensibile su questo tema. Io direi subito che sono d'accordo sul evitare la bocciatura e naturalmente questo sarebbe un aiuto di vietarla, perché purtroppo siccome l'interpretazione è sempre soggettiva anche da parte degli insegnanti, no, sul rendimento degli alunni, io vedo che l'insegnante illuminato riesce sempre a trovare la via per stimolare, per riscattare l'allievo che ha difficoltà. Quindi secondo lei la bocciatura è in realtà una bocciatura dell'insegnante che non ha trovato quello strumento didattico, psicologico, per stimolare il ragazzo che avrebbe sete. In una battuta, in fondo l'insegnante, il voto che dà al suo allievo, al suo singolo allievo, è il voto che dà a se stesso nei riguardi del rapporto con quell'allievo, cosa è riuscito a fare o non fare nel rapporto anche umano con i suoi allievi. Molto, molto chiaro, grazie a Tommaso che ci ha chiamato da Venezia. Andiamo ora nella provincia di Foggia. Pronto? Buongiorno. Pronto? Si era segnato forse da Foggia e ci scusiamo per quanti aspettano. Se volete comporre il numero 800 24 00 24, io ora andrei sulle strade, mi dice la regia, l'unico posto in cui posso andare è a controllare la situazione del traffico. Ritorneremo tra pochissimo. Ci stiamo chiedendo, riguardo a uno stimolo arrivato dall'Ocse, la bocciatura è il retaggio di una scuola all'antica? È veramente uno strumento efficace? L'Ocse dice no, va eliminata. Anzi, le nazioni che ancora la praticano e la praticano in alte percentuali sono anche quelle che hanno poi risultati scolastici peggiori. Non è quello che stimola la crescita degli individui, va ripensato tutto. Come la pensate? Continueremo a discuterne fino al termine della trasmissione. Ora il traffico. 24 mattino estate. Sono arrivate anche i Baustelle a segnalarci il disagio a volte dell'essere giovani, perché uno dei punti che l'Ocse sottolinea è come lo stigma della bocciatura poi rinforzi a volte delle situazioni non solo di devianza ma di disagio, nel senso che lungi dal far recuperare, a volte spinge coloro che sono stati bocciati a vantarsi quasi della situazione di outsider, con grande naturalmente danno di quelli che possono essere i risultati anche nell'anno successivo. I vostri messaggi sembrano piuttosto negativi riguardo a questa proposta dell'Ocse. La maggioranza degli ascoltatori è per il mantenimento dello status quo, cioè una scuola che boccia e anzi che bocci sempre di più, sembra quasi dirci basta con la scuola di plumificio, gli asini devono essere bocciati. Una segnalazione sì alla scuola che insegna i ragazzi a stare nella società, ci dice Gianni, no alla scuola del puro nozionismo e dell'imparare un lavoro. C'è anche chi ci dice io sono stato bocciato il secondo anno delle superiori, poi mi sono laureato, oggi invece vedo i ragazzi ignoranti, come risolviamo il problema? È molto tranchant questo giudizio sulle giovani generazioni, e poi chissà perché soprattutto coloro che hanno 40-50 anni tendono a darlo con molta disinvoltura, a questo giudizio sui ragazzi ignoranti. Sarà vero? Lo chiedo a qualcuno che insegna matematica e scienze presso la scuola media Manzoni di Pesaro e che di ragazzi se ne è visti passare davanti tanto. Buongiorno al professor Ferdinando Ciani. Buongiorno. Quindi secondo lei le giovani generazioni sono peggiori delle precedenti? Ma io non credo che siano generazioni peggiori, sono i problemi sociali probabilmente che sono cambiati e i giovani non riescono più a trovare una loro identità ed esprimere ciò che sono, i loro valori, i loro doni, E la scuola purtroppo invece è rimasta un'istituzione antiquata e non è capace ingessata, di dare risposte, di dare futuro a questi giovani. Quale sarebbe la soluzione anche rispetto a questo stimolo dell'OCSE? Ma io sono abbastanza d'accordo con la ricerca dell'OCSE e credo che la bocciatura, fatte le dovute eccezioni, non sia un fatto positivo. La scuola ha il compito di promuovere, nel senso più vero della parola, cioè promuovere significa aiutare a far crescere i ragazzi. Se noi non aiutiamo a far crescere i ragazzi, ma li fermiamo in nome di una pretesa efficienza o sicurezza sociale, perché molte volte dietro la richiesta di bocciatura c'è una nostra tranquillità, un bisogno di tranquillità nostra di adulti, di dire sappiamo che i cattivi sono emarginati, sono puniti, quindi noi stiamo tranquilli che questa società è fatta, sarà fatta solo di persone che rientrano in una norma accettabile. E questo io credo che non sia il modo di aiutare, è il modo di emarginare, perché coloro che poi vengono rifiutati dalla scuola si trovano costretti a scegliere strade pericolose per la loro vita. Ma io quindi qual è la sua soluzione comunque, professor Ciani? Prego, non ho capito. Qual è la soluzione che lei indica? Perché molti temono che dietro all'indicazione dell'OCSE ci sia una sorta di tala libera tutti, andate, fate quello che volete a scuola, comunque vi promuoviamo, comunque non avrete nessuna selezione di merito e non avrete nessuno stimolo anche a impegnarvi. No, io credo, questo non credo che sia vero, perché ci sono, come lei già citava in apertura, dei chiari esempi di scuole estremamente efficienti, come la scuola finlandese, che lavorano senza bisogno di bocciature, neanche bisogno di test. E come lavorano dunque? È una scuola veramente nuova, perché guarda alla persona, cioè dobbiamo passare da una scuola autoritaria a una scuola capace di essere autorità per i giovani, cioè di essere credibile. È chiaro che bisogna rivoluzionare un pochettino il concetto di scuola. La scuola etimologicamente risale da una parola greca che era skolē, e cioè il luogo di ricreazione dello spirito. E oggi andiamo a chiedere ai nostri studenti se la scuola per loro è un luogo di ricreazione della persona, del loro profondo. Grazie anche per questa citazione. Ora vorrei sentire naturalmente anche gli ascoltatori, non prima però di aver dato la parola a Giorgio Israel, che ringrazio per il suo tempo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. In trasmissione. Vi ricordo che Israel è docente ordinario al Dipartimento di Matematica della Sapienza e è un editorialista anche del Foglio, del Giornale, e scrive moltissimo di scuole su queste tematiche. Qual è la sua opinione? Ma guardi, adesso, a prescindere dal fatto che l'opinione, il giudizio dell'OCSE è inquinato da vari fattori, io non solo dall'osservazione che le bocciature sarebbero benefiche per i bilanci dello Stato, tanto vale allora chiudere le scuole, è la soluzione migliore. Vabbè, questa è una battuta. Si parlava prima della scuola finlandese, l'OCSE ha vantato la scuola finlandese come la migliore d'Europa. Una ricerca che io ho fatto basata su documenti finlandesi mostra che per esempio la matematica si insegna in Finlandia in un modo disastroso, molto meglio come si insegna. Comunque, venendo al problema, nessuno vuole più la scuola delle bacchettate sulle dita, anche perché non esiste. Questa è una scuola molto diversa, quella attuale, quella italiana, da quella di 30-40 anni fa. Ed è evidente, io sono d'accordo totalmente sul fatto che la scuola deve dare le massime opportunità, pari opportunità a tutti, e cercare di portare avanti tutti nel miglior modo possibile. Ma qui c'è una grossa confusione: pari opportunità non vuol dire successo formativo garantito, e questa ideologia del successo formativo garantito è diffusissima ed è un'ideologia pericolosa, è un'ideologia totalitaria. È un'ideologia che, diciamo, sostiene che siamo tutti uguali e quindi che alla fine dobbiamo tutti ottenere lo stesso risultato. Anche se io veramente non l'ho sentita pronunciare anche dai sostenitori dell'OCSE, e devo dire la verità, ho anche esperienze dirette di madre in una scuola dove non bocciano, per esempio la scuola canadese, e mi sembra che sia molto lontana dal formare percorsi identici per tutti. No, guardi che non sto parlando di percorsi identici, io sto parlando di successo formativo garantito, che è una formula che non ho inventato io qui ora, è una formula che la trova in non so quanti libri e documenti, cioè l'idea che la scuola deve garantire il successo formativo, del resto l'ho sentita in alcuni interventi precedenti, cioè che alla fine non si deve bocciare perché tutti devono essere portati avanti, e non è così. La scuola deve fare il massimo per portare avanti tutti, ma deve anche dare spazio al merito, al fatto che non siamo tutti uguali, non deve umiliare i migliori, perché esistono i migliori, esistono i migliori, esistono i peggiori, esistono anche gli infingardi. Come è stato detto giustamente in un intervento precedente, la scuola infingarda intende colui che insomma naviga a vista, non vuol far nulla. Sì. Esatto. Come è stato osservato molto bene in un intervento di un precedente di un ascoltatore, la scuola deve anche formare alla vita. E mi colpisce il fatto che la scuola di oggi, in cui pochissimo si boccia e pochissimo si rimanda e diciamo è molto permissiva, crea dei giovani che, come io constato all'università, sono anni e anni che ci lavoro, sempre più di fronte a una bocciatura di un esame si mettono a piangere, vanno in crisi. Ma ho capito, così, quindi rassicuro, cioè il problema il vero è che poi non dopo, c'è insomma poi la selezione, lo scontro con le durezze della vita c'è prima o poi sicuramente, è inutile rimandarlo, dice lei, con la massima apertura fin dall'inizio la scuola. Grazie, grazie a Giorgio Israel. Abbiamo ancora un minuto. I dati del ministero, vale la pena di ripeterli, gli studenti non ammessi nei soli primi due anni delle medie quest'anno sono circa 70.000, cioè rispetto ai 45.000 dell'anno prima. Non è vero che non si boccia, la scuola superiore, il 42% nelle scuole superiori italiane quest'anno non è stato promosso, quindi attenzione sul permissivismo. Certo, si può criticare, ma i numeri raccontano un trend completamente diverso, ed è interessante anche poi andare a sottolineare, come è stato fatto in precedenza, come la percentuale di essere bocciato se si proviene da una famiglia straniera, e non può essere un dato casuale, sia il doppio di altre. Come intervenire senza umiliare e senza condannare al ritardo cronico e cronicizzato gli alunni che vengono dalle classi sociali più svantaggiate? È semplicemente questa la domanda dell'OCSE sulla quale vi abbiamo invitato a intervenire. Marcello D'Orta, ora che ha ascoltato diversi stimoli, rimane perplesso? Rimane della sua idea, professore? Ma sì, io ho sentito un professore che diceva che la scuola ha il dovere di promuovere. No, non mi sembra che la scuola abbia il dovere di promuovere. La scuola ha il dovere di fare in modo che tutti vadano avanti, ma se c'è qualcuno che dimostra con dati, come dire, oggettivi, di non aver voluto far niente, bene, questa persona per il suo bene deve essere fermato, deve essere, tra virgolette, pulito. Questo grazie. Penso che sia il fine della scuola. Grazie anche a Marcello D'Orta, l'autore di Io speriamo che me la cavo. Riusciamo a prendere dalla provincia di Modena l'ultimo ascoltatore prima dei saluti. Buongiorno Andrea. Buongiorno, io sono perfettamente d'accordo con quanto detto dalla professoressa universitaria che è intervenuto un attimo fa. Vorrei contraddire quelli che sono alcune opinioni che sono state espresse. Lo faccio ma molto velocemente, purtroppo. Allora, l'OCSE dice che le bocciature ritardano l'entrata nell'ingresso del lavoro, ma portare avanti delle classi di alunni che non sono preparati nelle varie materie, portare fino alla fine degli studi, costringe poi le aziende a ignorare quelli che sono imperiti, perché ormai i periti che escono dalle scuole superiori non hanno più la formazione sufficiente per andare a fare i periti. Grazie. E quindi nascono tutti questi corsi di formazione post diploma. Andrea, abbiamo anche capito, la scuola, lei dice, ha avuto una sorta di erosione della qualità e quindi si rimanderebbe solo il problema. È un tema comunque molto sentito in alcune nazioni, la normalità non bocciare, ovviamente non tutti gli studenti si diplomano o raggiungono un risultato finale con lo stesso tipo di crediti, e quindi non a tutti poi viene garantito il percorso successivo. È un tema che riguarda tante famiglie, tanti ragazzi e non solo, e sul quale l'OCSE ha aperto il dibattito. Noi torniamo con 24 mattino estate domani alle 7.15 come al solito. Per i vostri stimoli scriveteci all'email 24mattino@radio24.it oppure sulla pagina Facebook di 24 mattino. Continueremo la discussione. Buona giornata da Irene Zerbini.